abbracciare sulle lenzuola dell'ospedale, sul suo vestito bianco e il suo viso stanco, piange gocce di rugiada. La mia ragazza è l'Africa, ragazza è tutto il mondo. E tiene in braccio il suo bambino, apre gli occhi è piccolino. La mia ragazza è terra, è carne e sangue. Suo seno nasce il grano. La mia ragazza è anima, spirito e preghiera. Dal suo cuore nasce amore. È un raggio di sole che illumina la stanza. Ragazza è mia per sempre. E tiene in braccio il mio bambino. Chiude gli occhi e piccolino. E tiene in braccio il mio bambino. Il becco è un uccellino. Infermiere ostetriche, pediatri e dottori, poi re magie di pastori. E questo è il centro di tutto il pianeta. Cielo la stella cometa. E tiene in braccio il suo bambino. Apre gli occhi e piccolino. E tiene in braccio il mio bambino. Le ali è un uccellino. Sta tutto dentro ad una mano. Apre le ali e già lontano. Na na na na na na na. Na na na na na. Na na na na na na na na.